È solo un addio, credimi o non ci penso mai. Vedo che hai pianto, tu lo sapevi, ma da quando? Bella d'estate va via da me. Notte d'incanto, è bello vedere le luci laggiù. E io sono stanco, non voglio parlare, parla tu. Bella d'estate va via da me. Forse perché ti credevo felice così, proprio così tra le mie braccia. Forse perché ci bastava arrivare fin qui, come onde di notte sulla spiaggia. Oh la la la la la la la. Piccoli fuochi, noi siamo zingari di periferi. I nostri son giochi che durano poco e la notte se li porta via. Bella d'estate vai via da me. Forse perché ti credevo felice così, proprio così nelle mie braccia. Forse perché ci bastava arrivare fin qui, come onde di notte sulla spiaggia. Oh la la la la la la la. Chiudi gli occhi e ti senti per sempre così. Io ancora qui tra le mie braccia. Per tutte e due basterebbe tornare fin qui, come onde di notte sulla spiaggia. This is the time of love. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o